GR Europa. Belgrado e Pristina hanno raggiunto un'intesa di principio sull'attuazione dell'accordo del 19 aprile. L'accordo è stato raggiunto dopo due giorni di trattative nella sede di Bruxelles. Dopo aver ascoltato il discorso di Enrico Letta, mi sono rassicurato che ci sono ancora veri pro-Europa in Europa. Così il presidente del Parlamento UE, Martin Schulz, nel corso di una conferenza stampa al vertice UE. E ora parliamo di casa, di social housing e del fatto che per almeno un quarto degli europei la casa, piuttosto che un rifugio, è diventato un fardello, qualcosa con cui è difficile fare i conti alla fine del mese. Ne abbiamo parlato con Andrea Cozzolino, eurodeputato, membro della Commissione Occupazione e Affari Sociali. In primo luogo, l'Unione Europea può fare qualcosa su questo fronte? È noto che il trattato ci impedisce di avere una politica con una forte base legislativa sulla casa e sui temi relativi alla questione urbana. Tuttavia, nella riprogrammazione delle risorse comunitarie 2014-2020, sono risorse ingenti, più di 32 miliardi che dovrebbero affluire verso l'Italia, sia del nord, sia del centro che soprattutto del sud. Noi abbiamo posto una condizione e abbiamo ottenuto un risultato. La condizione è che almeno il 5% di queste risorse siano destinati direttamente ai comuni per mettere mano a programmi di rigenerazione urbana senza consumare più suolo, ma abbattendo e ricostruendo e quindi dando un nuovo valore anche alla casa, offrendo un patrimonio edilizio che sia più sicuro, che sappia rispondere positivamente alla sfida dei cambiamenti climatici e quindi alla necessità di ridurre il consumo energetico, e contemporaneamente siano appartenenti, diciamo, a case e quartieri sostenibili dal punto di vista sociale, cioè che diano risposta, diciamo, al dramma che abbiamo in questi mesi di tante famiglie, giovani coppie che sono impossibilitate da poter utilizzare questo bene. L'europarlamentare leghista Mario Borghezio è fuori dal gruppo EFD, Europa delle Libertà e della Democrazia. Non è ancora chiaro se si tratti di espulsione o di una sospensione. Tutto questo per quanto detto sul ministro Cécile Kyenge in un'intervista alla Zanzara su Radio 24, che naturalmente ritrovate come tutti i nostri contenuti sul sito di Radio 24. E con questo è tutto. GR Europa torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.